A giudicare da quello che si vede sui social, sui vari blog e sui giornali, sembra che buona parte della popolazione italiana ambisce a fare il boia come mestiere. È qualcosa veramente sconvolgente, non pensavo si arrivasse a un punto di questo tipo. C'è un rancore, un odio, un istinto vendicativo, naturalmente suggerito e sobillato da personaggi come Salvini, come Di Maio, come questo governo. E se c'è un'osservazione che si deve fare assolutamente, proprio perché è scritto tutto nero su bianco e non sono certo nostre relazioni, è il fatto che la cattura di Cesare Battisti e tutto appunto il carico d'odio che ci è andato dietro ha riunito per una sola volta e solo su questo argomento tutto l'arco politico istituzionale italiano, da Roberto Fiore a Laura Boldrini, dall'estrema destra alla destra. Praticamente. È l'unico caso, mi sembra, di vedere in Italia dove tutta la politica è d'accordo sul portare a casa uno scalpo, perché poi di questo si tratta. In realtà è la solita arma di distrazione di massa che serve per alla fine poi far passare tutti i provvedimenti porcaioli come decreto Salvini, altri decreti che impoveriranno ancora di più i precari e i disoccupati, che sono appunto i provvedimenti economici che sono stati presi da questo governo, tutto quanto, niente, io non ci trovo nulla di nuovo come qualità della questione, come quantità devo dire che non eravamo abituati a livelli così bassi e anche di massa. Su questo è interessante il come si parli e parlino persone che ignorano completamente la storia di Battisti. Esatto. E di quella fase. Esatto, quello che colpisce è proprio questo, che buona parte, quasi tutti coloro appunto che ambiscono allo scalpo del povero Battisti, è proprio questo, cioè nessuno di loro intanto non c'erano, perché erano troppo giovani ai tempi, non hanno letto nulla, non si sono informati, non hanno letto nemmeno una delle carte processuali di un processo farsa fatto sulle leggi emergenziali del tempo, che peraltro ci siamo tirati dietro fino qua, di quattro ergastoli dati sulla testimonianza senza alcun riscontro di un pentito, proprio nulla, sulla base del nulla, soltanto appunto, come dicevo prima, sobillati da certa politica, si esprimono con questi toni oltremodo forcaioli, sempre incomprensibile, però è così. Pochi invece, quelli che c'erano, come me ad esempio, data la mia biografia, io faccio parte di quella generazione lì degli anni 70, quindi conosco bene la questione e la conosco per filo per segno, perché quel processo l'abbiamo seguito, perché è stato un processo pilota per tutti quelli che sono venuti dopo, migliaia e migliaia di anni di galera dati a coloro che avevano fatto appunto le lotte sociali di quegli anni, lotta armata o non armata, io non è che faccio molte differenze su questo, cioè si è trattato di una fase politica che è stata estinta con la repressione, con l'autoritarismo e soprattutto 50.000 anni di galera sono contati, scontati da chi purtroppo ci è cascato dentro, me compreso, ma poco importa. Quindi la galera l'abbiamo conosciuta bene, quindi noi parliamo di Cesare Battisti, che peraltro guardate è un personaggio controverso e faceva parte di un gruppo che, altro che controverso, insomma, ci sarebbe molto da dire su questo, perché quello che erano i PAC e cos'è stato lui, insomma, un militante di terza fila, non certo uno noto o comunque che avesse espresso in documentazione importante o produzione politica o quanto del genere. Quel gruppo ai tempi, ricordo molto bene, era particolarmente odiato, perché facevano cose francamente discutibili anche da tutti coloro come prima linea, ad esempio, che comunque praticavano la lotta armata. Ma qui il punto non è questo, il punto è di come quel processo si è svolto, perché è stato uguale ed è stato, come dicevo, apri pista per tutti gli altri processi venuti dopo. Cioè, quando a quei tempi, anche adesso non è che è diversissimo, però a quei tempi di più, i giudici condannavano sulla base delle dichiarazioni di un pentito senza alcun riscontro, e molto spesso succedeva che il PM dava al pentito un foglio bianco, questo apponeva la firma, poi soltanto dopo il foglio veniva riempito con quello che serviva. Questa era una prassi, ad esempio, come era una prassi la tortura. Quindi battersi contro questa vicenda che è successa a Battisti significa quello, no? Non per lui personalmente, voglio dire, non mi sta particolarmente simpatico quel personaggio, lo posso dire, ma ripeto, il problema non è lui, il problema è la vicenda in sé, che ha coinvolto ed è stato appunto il paradigma di una stagione di stato di emergenza permanente che poi è arrivato fino a qua. Quindi il problema è questo qua, battersi contro quelle leggi speciali che ancora abbiamo e che il decreto Salvini le utilizza da tanti anni. Fai parte di un'associazione che ha come obiettivo, diciamo così, la chiusura delle carceri, no? Il superamento. Oggi sembra che invece il carcere, nella maggioranza delle persone, sia vissuto come una sorta di vendetta. È a questo che dobbiamo rassegnarci? Rassegnarci mai. È vero che noi siamo abolizionisti da questo punto di vista. C'è una scuola appunto di pensiero su questo che è in Olanda, in Inghilterra, in America e in altre parti del mondo. L'abolizione dell'espiazione penale in carcere. Ma questo è il clima e la fase politica che stiamo attraversando. Cioè, non è un caso, parlavamo prima di questo rancore. Sì, si pensa alla galera come unica soluzione per la sicurezza del paese, quando in realtà accade completamente il contrario. Tra l'altro ci sono delle contraddizioni che nessuno è in grado di spiegare, di loro, dico, di quelli che vogliono la galera per tutto e per tutti. Tutte le ricerche e dicono che i reati, soprattutto quelli predatori, sono in calo ormai da anni, però le carceri si riempiono, si continuano a riempire, abbiamo superato di nuovo la soglia shock, diciamo così, almeno per quanto riguarda le galere detenuti, siamo oltre 60.000, questo poi è il risultato. Purtroppo la fase è questa, e chi sta al governo ora e anche coloro che c'erano prima, perché basta ricordare Minniti, basta nominare quel nome, voglio dire, abbiamo detto tutto. Questa è la fase.